Sudafrica 2010, i mondiali in diretta. Webb dice che finisce qui, è la storia per la Spagna, è la storia, è la prima volta che la Spagna è campione del mondo. Così la Spagna diventa la trionfatrice di Sudafrica 2010. Buongiorno da Dario Ricci. Nella finalissima del Soccer City Stadium di Johannesburg, esaltata dal saluto dal vivo di Nelson Mandela prima del fischio d'inizio, decide un gol di Iniesta a 5 minuti dalla fine dei supplementari. Il servizio. Ha deciso un gol di Andrés Iniesta dopo 115 minuti di una battaglia a tratti durissima e ben poco tecnica. Un destro dalla corta misura, imprendibile per il portiere olandese Stekelenburg, sin lì praticamente perfetto, oltre che aiutato dalla mira sciagurata degli attaccanti spagnoli, imprecisi sino al limite dell'autolesionismo con Sergio Ramos, Capdevila, David Villa, Fabregas e Jesus Navas. Alla fine ha vinto la Spagna, anche se a lungo il piano tattico di Van Marwijk, seppure con Snyder a tratti in ombra, aveva imbrigliato le furie rosse, e se Robben non si fosse divorato due contropiede a tu per tu con Casillas, la storia della finale sarebbe stata diversa. Partita durissima, si diceva, eppure mal diretta dall'inglese Webb. Alla fine 14 cartellini gialli e uno rosso sventolato da Itinga nel finale del primo tempo supplementare. Episodio decisivo, olandesi però graziati più volte, Van Bommel e De Jong addirittura nella prima mezz'ora, Robben nel finale e poi un rigore su Xavi non visto, insomma un disastro, e per fortuna che ci ha pensato Iniesta, l'uomo dai gol che fanno la storia, a rimettere le cose a posto. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Il tecnico dei neocampioni del mondo, Vicente Del Bosque, al microfono di Sky Sport. Un partito molto difficile, è stata una partita molto difficile, però abbiamo dei giocatori fantastici. Hanno saputo imporsi già dal primo tempo e nel secondo tempo penso che abbiamo già meritato il trionfo e forse avremmo potuto segnare qualche gol di più. Abbiamo avuto 3-4 occasioni molto molto chiare. Beh, io ho avuto una carriera molto lunga, non voglio selezionare nessun giorno, però questo è un giorno molto molto felice, il giorno dei miei giocatori, sia quelli in panchina che quelli in campo. L'uomo decisivo della finale, Iniesta, sempre intervistato da Sky Sport. Incredibile. È davvero incredibile, è incredibile il modo in cui abbiamo vinto e quanto ci è costato vincere un mondiale. Non ho parole, ho pensato alla mia famiglia e a tutti. È un lavoro di molto tempo, ci sono stati momenti difficili, però ora dobbiamo gioire. Un ritratto dell'uomo mondiale nella voce e nella penna di Carlo Genta. Al minuto 108 di una partita di intensità fisica selvaggia, Xabi chissà con quali energie va a negare lo scatto a Robben, soffiandogli il pallone. Un istante dopo concede l'1-2 a Iniesta, provocando l'espulsione di Eitinga e la punizione dal limite. Sulla piazzola di sparo va lo stesso Xabi, e poteva finire anche così, con il sigillo di quello che è oggi forse il più forte centrocampista del mondo. O poteva finire prima, con Arjen Robben stoppato da Casillas nella sua fuga solitaria verso la coppa più bella del mondo. Invece è andata in un altro modo. Il mondiale lo decide un ragazzo di Castiglia-La Mancia che gioca per il simbolo di Catalogna, il Barça. Uno con pochi anni e pochi capelli, con la faccia sempre del colore della cera. Si chiama Andrés Iniesta, ha giocato una stagione così così, più no che sì, ai margini del Barcellona, con diversi problemi fisici e un solo gol. Un altro, diverso, però lo aveva già segnato nella porta del Chelsea all'ultimo istante, regalando agli azulgrana la finale poi vinta della Champions 2009. Chiamatele, se volete, premonizioni. E pensate che a farlo giocare tra i grandi fu per primo Frankie Rijkaard. Che dannazione agli olandesi, che per 3 volte su 3 piangono di rabbia e che magari prendendolo alla larga, come in uno di quei ciondolanti, ammaglianti giri di palla della prima arancia meccanica, riescono sempre a trovare il modo di farsi del male. Onore all'Olanda che dopo una partita dura e spigolosa ha applaudito gli iberici freschi campioni del mondo. Tutta la delusione del CT dei tulipani Van Marwijk. Siamo arrivati proprio verso la fine. 3 minuti eppure abbiamo perso, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo comunque giocato bene, avremmo potuto fare molto meglio, certo, è chiaro, però abbiamo perso i momenti più decisivi per farlo ed eravamo veramente vicinissimi al risultato, ma non ce l'abbiamo fatto, però abbiamo comunque, possiamo dire che ha vinto la squadra migliore. E ieri è stato anche il giorno dell'elezione del miglior giocatore del mondiale. Il titolo è andato a Diego Forlan, attaccante dell'Uruguay, che è stato il più votato col 23,4% dei consensi tra i giornalisti accreditati in Sudafrica. Alle sue spalle l'olandese Wesley Snyder e poi al terzo posto lo spagnolo David Villa, miglior portiere il capitano della Spagna Iker Casillas. affollato il gradino più alto del podio del capocannoniere, titolo che si dividono con 5 reti proprio Villa, Snyder, Forlan e Thomas Müller, il tedesco Thomas Müller, che ha vinto anche il titolo di miglior giovane della manifestazione. E per Sudafrica 2010 è davvero tutto, appuntamento al 2014 in Brasile. Ancora una buona giornata.